torto, torto. Così. Brava, bocca stretta, stretta, stretta. Così. Ma brava. Vamo, coro, di gloria, al gran chimento. Corriamo, sì, corriamo al gran cimento, piena il cuore d'ardimento, la salsa prano molto sentiremo a distoccia. Ma quel vecchia bella testa questa volta d'oggirà, ma quel vecchia bella testa questa volta d'oggirà, ma quel vecchia bella testa questa volta d'oggirà. Questa volta da girare, la salsa sentiremo di soffiare, la salsa.